diretta. Siamo in diretta. Siamo in diretta. Siamo dirette. Oh, porca. E dove siamo dirette? Mo, so cazzo. Sono su Fuori Onda Radio. Cioè? Niente, una radio di giudi. Oh. Fuori Onda Radio, una radio per gente di fuori. E questo sono, io sono quella che oggi è un pochino seria perché non so dire l'NT. Niente. E non so dire il mio nome, mi dispiace tanto. Perché tu ti chiami? Donatella. Andonietta. Andonietta. Con la D. Come Francesco. Le D di Paola. Invece delle T. Le D di Paola, bellissimo. Ma come sono andate queste vacanze? Sono finite. E non lo so. No, sono proprio andate. Sniro presto. Sono andate. E niente, Marie, mi sono andate bene, Babbo Natale è passato, se n'è andato. A questo proposito c'era una lettera bellissima che vi invito ad andare a leggere da parte di Babbo Natale a un bambino cosentino su sito di Nunzio Scalercio. Su Spigaweb. Spigaweb, salutiamo Nunzio Scalercio da qui. Che ci ascolta sempre. E poi non ho mai capito perché si chiama Spigaweb. Mi trovi impreparata. Sei impreparabile. Impreparabile. Chi ce la spiega la spiga? La spiga non si spiega. Si spiega la spiga. Ma io siamo in diretta. Qualcuno dice. Ma com'è sta questa intervista? In che cosa consiste? In che cosa consiste l'intervista? No, no, era una lettera proprio bella di un Babbo Natale che si è cagato il cazzo. Perché? Per una serie di varie ragioni e poi soprattutto perché dice: che cazzo mi scrivi a Babbo Natale Polo Nord? È come se tu scrivessi a Peppone Italia. Ma Babbo Natale faceva le canzoncine. Che faceva Babbo Natale? Non lo so. Cosa faceva Babbo Natale, le canzoncine? Ma il bambino gli ha chiesto le Stratos? Chiaramente, cioè che sei Stratos. Sono delle. Le Stratos sono uno status symbol. Uno status, sì. Le scarpe di Cusenza, scarpa che ha fatto tendenza. Ma gliel'ha chiesto a Natale per Capodanno, per andare al veglione. Gliel'ha chiesto a Natale vinto, gliel'ha chiesto. Che salutiamo con tutto il cuore. Ciao Natale. Natale è passato. Natale, però ti rendi conto che in estate non ci guadagni molti saluti, sì. Ah, sì, ma lo sapete comunque, che c'è una canzone? Lo stavano cantando, scusa. Avvicinare al microfono, gentilmente passante. Comunque, cosa c'è in scaletta adesso, giusto per capirci? Winner Taco. Questa puntata si fa apposta per il Winner Taco. Cioè, sì, altrimenti ribadiamo... non avete capito niente. Allora, chi la dà? Voi non la date, che bugiardo. Comunque, un saluto ai signori Lisotti, ovviamente, che non ci stanno ascoltando. Ah, bolla fondente. E niente, c'è questa notizia che infatti mi scrivono mo in diretta: papà occupa il PC, non posso seguirti. Purtroppo che è peccato, papà occupa il PC. Peccato. Comunque vi dicevamo, c'è questa notizia scioccante che ha sconvolto la rete. Perché ve lo ricordate il Winner Taco? Tu te lo ricordi che sei piccola per ricordarti il Winner Taco? Tu sei piccola. Io? No, io boh, me lo ricordo, mangiavo un altro gelato quando ero piccolo. Fai schifo. Le cagatine proprio non mi piacciono. Cagatine al Winner Taco. Allora, io me lo sogno la notte, mi sono messa insieme al mio ragazzo perché la sua faccia mi ricorda quella dell'orso. Cicillo ne sarà felice. Winner Taco. Ah, non facciamo nomi. La privacy, quelle cose là. Sì, salutiamo pure Cicillo. Ciao Cicillo. E salutiamo zia Pina. Zia Pina, la signora Pina è nostra amica. Dicevamo, il Winner Taco, successo gelatiale, proprio gelatiale, degli anni 90, dell'Algida, che tutti quanti si chiedevano che fine avesse fatto, no? Tu non te lo chiedevi? Che fine avesse fatto? fatto il Winter Taco? A me non me ne frega proprio niente. Winter Taco, dove sei finito? Winter Taco! E così per una decina d'anni, un sacco di anime vagavano alla ricerca del Winter Taco. A me m'era rimasta la Golia. A tutti c'era rimasta la Golia, ma proprio tanto. E allora una serie di bambine e bambini con la Golia del Winter Taco che hanno fatto? Bambini un po' cresciuti però. Bambini di ieri. Che hanno fatto? Sono andati sulla pagina, sulla pagina dell'Algida di Facebook. Sulla pagina dell'Algida. La pagina dell'Algida. E che hanno fatto? Hanno fatto sentire la loro voce attraverso il popolo della rete, come ci insegna Beppe. Cicala. Beppe. Ciccio Cicala. Ciccio Cicala. Ciccio Cicala. Beppe Grillo è un altro, lui questo è Ciccio Cicala. Il popolo della rete si è fatto sentire perché in questi anni qualsiasi. Il popolo della rete è fatto di pesci. Chiaramente. Poverini. Faranno solo una brutta fine. Il popolo della rete com'è fatto? Appunto a croce. Appunto a croce. Ma finisce a te la Ida. Gara mi segua, io non le so queste cose. Ma tua nonna non te le insegna queste cose dell'unginetto? No, la mia nonna però mi fa dei succulenti pranzetti ipercalorici. Ecco. Comunque dicevamo che hanno fatto, si sono riuniti sulla pagina dell'Algida e qualsiasi cosa l'Algida postasse, loro commentavano semplicemente. Si sono riuniti giustamente, comunque voglio ribadire. Hanno fatto buono. E loro commentavano semplicemente. Vogliamo il Winter Taco, vogliamo il Winter Taco, Winter Taco, Winter Taco, Winter Taco, Winter Taco, il retro gelatiero. Esatto, fino a quando giustamente quelli dell'Algida si sono cagati u kids. E che hanno fatto, ragazzi, rullo di tamburi? E l'Algida ha espressamente annunciato che il Winter Taco torna nelle migliori gelaterie. Quindi, secondo voi Zorro ce l'ha? Che blues. E bravo, bravo Winter Taco. Bravo Winter Taco. E un bravo aglione Winter Taco. E quindi ragazzi, preparatevi, assediate le gelaterie e soprattutto sappiate che continueremo a parlare del Winter Taco in questa puntata, a raccogliere testimonianze, ricordi di quanti l'hanno vissuto quando era ancora potevi in vita. Potevi sentire anche pagina. Tanto non vi leggiamo. Tanto non vi leggiamo. Oppure siete soltanto voi che non ci cagate di striscio. Però il Winter Taco vale la pena, cioè nel senso è meglio ascoltare la giotia dall'etere, così avrete notizie sul Winter Taco se ci tenete. Notizie 24 ore su 24. Ricordi tu a noi del Winter Taco, non ce ne sbatte. Allora, creiamo due fazioni, dopodiché mandiamo il brano, no? Così se no non parliamo. Creiamo due fazioni con due hashtag, ok? Una è grazie, grazie amica Algida che ci hai ridato il Winter Taco, tutto con l'hashtag tutto attaccato. E l'altro è hashtag a me mi piace Omagnum. Brava, brava! Finalmente! E vediamo chi raccoglie più preference, d'accordo? Ho anche detti mi piace. Chiede cose. Mi piace. 10 euro a mi piace. 10 euro a mi piace. Li paga Peppone. Ok, è fatto. Mandiamo il pezzo. Andiamo il pezzaccio. È da un pezzo che dobbiamo mandare il pezzo. E mandiamo questo pezzo. Pezzo. Ma solo un pezzo. Non tutto. Ah, ma questo fammelo presentare. Un pezzo di Pippo. Ragazzi, siamo ancora lì? Questo è un pezzaccio, voglio. Cioè? Lei è grande, un pezzaccio. È un grande pezzo. Lei è Sony Argento e questa è Super Gay. Super Gay. Ma chi sei? Io vorrei agganciarti, ma parli con lui. Portiamo insieme la mia. Se proprio lo vuoi, super gay, che farei per amarti, che farei per averti, che farei per amarti un'ora sola, che farei per averti, che farei anche il sesso cambierei per amarti un'ora sola, super gay. We'll be right back. ce lo so. Super gay, che vorrei. Oggi sono tutta stravolta, ho bevuto anche un po'. Sbaglio soltanto a pensarci, non dire di no. Super gay, ti vorrei. Vai, dove va? Non lo so. Io. Vedo una notizia, mo. Ricogliati, dove va? Voglio, vi è piaciuta la canzoncina? Era bellina assai. Era proprio bellina, sono i grandi successi anni 80. 80 però, sì, eh. 80, per come lo dico, Bandonetta. Grandi successi? 80. Grandi ecco. Successi anni 80. Possiamo competere. Competere. Scusa. Dobbiamo fare una puntata solo con ND. Adesso ci mettiamo di impegno. La settimana prossima faremo tutte quante parole con NT. Assolutamente. Quindi, assolutamente. E con la P. Con la P. E con la B. Ma comunque, adesso io ho trovato che c'è una notizia proprio bella. Una notizia bomba. Una notizia boom. No. Questa notizia è proprio faiga perché è successa una cosa che a volte la gente sa. Allucinante proprio. Allucinante proprio. Allora, è successo che voi sapete che ogni tanto quando qualcuno fa una cosa brutta finisce in carcere, no? Però quando c'è culo finisce Argabbio. Quando c'è culo finisce a casa, no? Alla casa. E teoricamente tu non dovresti uscire, se no sei in libertà vigilata. Però se sei ai domiciliari tu non devi uscire. Manco per Natale, manco per Pasqua e soprattutto manco per ammazzare o puerco. Esattamente. Però che è successo? Dove soprattutto? È successo? Scusi, Nonietta, è successo che una simpatica signora nel microfono. Stefano Coni. No. A Stefana Coni. Stefano Uzz. Ah, Stefanaconi, provincia di Vibo Valentia. Vibo Valentia. Valentia. Valentia. E che è successo? È successo che i carabinieri della compagnia di Vibo Valentia hanno arrestato compagnia. Una donna di 32 anni, Cicci, di Stefanaconi, per violazione del regime degli arresti domiciliari. La donna, sebbene si trovasse in regime di detenzione domiciliare, è stata notata da una pattuglia di carabinieri mentre passeggiava per la stradella. Passeggiava? Ma stava sì, andando? Perché aveva, che ne so, i coltelli, le asce. Lo spago per fare le salsicce, la forchetta per fare la... Io volevo capire una cosa sola. Lo dicono se alla fine il porco si è salvato? Aspetta. Leggiamo l'articolo perché qui siamo professionali. È stata notata da una pattuglia dei carabinieri, però da notare i carabinieri che notano, della stazione di San Donofrio, nel cortile posto alle spalle dello stabile dove dimora la dimora. La donna era intenta a compiere le operazioni di pulizia di un maiale con altre due persone, poveretta. Wow. Pulizia del maiale, ma si dice così, pulizia del maiale. Insomma, voglio, era andata a fare il porco, ma io non l'abbia, io non l'abbiasi, ma voglio dire, periodo, è giusto che ognuno si prende le proprie responsabilità. Ma infatti secondo me tipo poi i carabinieri erano contenti che magari qualche salsiccia gli c'è finita pure sulla tavola. Infatti la, la mi date i fritti. Posso dire una cosa di Notre Dame de Paris? Vai, vai. E questo è il tempo dei maiali. Chi ci odia? Si fa. e quindi l'importante è fare le frittole, l'importante è fare le salsicce. Le salsicce. Comunque, e poi che hanno fatto questi carabinieri? Che hanno fatto? Constatate le violazioni alla misura detentiva degli arresti domiciliari, la donna è stata accompagnata negli uffici della stazione dei carabinieri di Sant'Onofrio e successivamente dichiarata in arresto per il reato di evasione. Però non è stata dichiarata in arresto per il reato di frittola. Secondo me gli danno qualche attenuante. Attenuante? Se ci regala le salsicce, sì. 5 litri di olio pure, no? Certo. Pare provole. Io, ma veramente, un po' uno... Un po' di guanciale in Cassazione. Non è che... Ma scusa, infatti, ma uno per mantenere le proprie... Tradizioni, brava. Dislessia, portami via. Uno per mantenere le proprie tradizioni in carcere, che deve fare? O gli portavano il porco a casa. Non ci hanno pensato. Lo mettono nella vasca. Tu dici nella vasca. No, raga, è già. Il maiale nella vasca. Ma mica ci entra un maiale. No? Dipende dal maiale, voglio tipo dire. Tipo Giovanni ci entra nella vasca. Peppa Pig ci entrerebbe. Peppa Pig. Ma il maiale. George. Oh, George! Abbiamo un file audio del maiale in questione. Questa era una maiala. Era una maiala pesante, però, eh? Era una maiala nella vasca. Era una maiala raffreddata, questa. Ma come ti permette? La tua culo. La tua. E quindi? In definitiva? In definitiva questa l'hanno portata dentro, presumo. Uno sì. Se può dire manca a fare esatti. Però secondo me qua c'è qualcosa che non va. La questione è politica. La questione è politica, ragazzi. Ma e chi controlla i controllori? È questo. chi è che non zollerebbe mai un controllore? Vabbè, difficile, vai. C'è quello con gli occhi azzurri qua, quello 4 miglia che è tremendo. Come se la sente? Minchia come se la sente. Ah, come se la sente controllore. Questo, ti prendi tu la responsabilità di dirlo? Ce l'ha piccolo. Si è sentito proprio distorto. Benissimo, benissimo. Sì, ma secondo me la questione è politica. Perché qua c'è qualcosa sotto. Dobbiamo fare un'assemblea. Qua c'è qualcosa sotto, bisogna... No, non ne parliamo adesso, ma non ne possiamo parlare. Bisogna mettere non tutte ne possiamo le cose parlare, in ventola. Ma no, in assemblea. In assemblea, non prima ho capito. Non le frattaglie dobbiamo mettere in pentola. Le frattaglie del maiale. In pentola, in assemblea. Qua l'acqua bolle. Il maiale era montagna. Ecco a voi il piccolo coro dell'Antoniano Golendino. Dell'Antonietta. A proposito di porci, smettetela di fare i vostri porci comodi. Che voglio cazzo dire, vuoi? Vogliamo parlare di un porco d'eccezione. Chi è? Peppa. Ma noi Peppa viene Peppa. Dopo la musica. Dopo la musica. Ma è sempre il tempo di Peppa. Ma siamo una radio webofonica e quindi dobbiamo... Una radio giotofonica. Però dopo ne parliamo di Peppa. E Peppa, manda il pezzo, Peppa. Peppone. Peppona! Ho incontrato una cosa che ci sta sale. Devo fare una comunicazione di servizio. What? Tutte queste musiche che abbiamo mandato fino a mo, tipo questi tre brani, non è perché abbiamo la munta, è che sì, effettivamente abbiamo selezionato sta scaletta perché erano canzoni ciote, o no? La ciotia degli anni 80. La ciotia, sì, sì, degli anni 80. E quindi salutiamo i signori Risotti. Salutiamo Lupino dall'Inghilterra. Poi salutiamo poi la Petrona House. Se si dice così, qualcuno mi corregga in inglese. Se mi sbaglio, mi corriggerete. Mi corriggere, corriggeretemi, per favore. Comunque, volevo salutare anche Shari dalla Sicilia che. Che dice che d'ora in poi vuole che, siccome è la mia coinquilina, che le canti super gay tutti i giorni a casa. Ma. Sei una pazzerella. Che ci fa in Sicilia, chiedono qui. È siciliana. È siciliabile. E che ci fa a Cosenza? Shari, sei allora siciliana. E a Cosenza non lo so, penso sia venuta a cacare di me. Ah, quindi non è vero. Sei in sogno. Brava donna, mi sta scrivendo. Adesso, allora, mi sta chattando. E adesso dirà qualcosa per salutare i nostri amici spettatori. In sala d'aspetto. Dai, scrivi, Shari. Shari, se ci sei batti un. Ma il nome va proprio Shari. Eh? È nome, va proprio Shari. No, Sara, sì. Fantasia. Shari ha scritto. Ma non si può dire quello che ha scritto. Che fantasia che danno. Salutiamo pure la signora Pia. Ma chi è quest'uomo che sta parlando? Questa voce. C'è una voce. Maschia. C'è una voce maschile. Frugiuoto. Che schifo. Ah, comunque adesso Shari ha detto che ci saluta. Ciao Shari, cambiamo in saluti. Shari. Salutiamo lo schifo persono che prima stava parlando. Chi è? Ah, schifo persono. Per favore scrivete pure se volete. Mezz'oretta e mezza è di solo schifo persona. Cacciategli il microfono. Cacciategli il microfono. E salutiamo lo schifo persona scaricatore di Porto. Carissimo Becky di Porco. Bravo Becky, bravo. Ah, e poi qui vicino a me c'è un'altra persona che dovremmo salutare, che è il nostro boicottatore di fiducia, il carissimo Peppo. Come boicottatore. Allora, ha detto che lui, io queste sono fonti ufficiali Facebook, ha detto che lui non ci può sabotare. Ma ci salva il culo, mi ha detto. No, non ci può sabotare, al massimo ci può giovediare. Oddio. Giudì. No, Peppone, grazie per la tua collaborazione, è sempre molto apprezzata, ti vogliamo un sacco di bene. Senza Peppone non andiamo in onda. In onda che radio. Mondo sarebbe senza Peppone? Fuori onda radio proprio. Solo sulle web frequenze di fuori onda radio.radiovista.org. Oh yeah. Abbiamo preparato per voi una puntata strabiliante, piena di contenuti, ricca di cose bellissime. E quindi winner. Ricordiamo la notizia per chi si è connesso da poco, no? Cosa succede? Why you? Rifanno il winner taco. Ma quindi Lupino, ricogliati che qui c'è il winner taco. Lupino, ricogliati. Non lo fanno il winner taco. Che stiamo all'Inghilterra. All'Inghilterra. Beh, adesso un contributo sonoro. All'Inghilterra. Dobbiamo parlare. Intanto Ciccio Pupo, voglio un po' di patatine. Grazie. Io ho una fame incontenibile. Aspettate, il momento alto della puntata. Questa è una fama incontenente. Insomma, c'è un San Giovannese che aspetta. Un San Giovannese che aspetta. Sì. E che è il momento, cioè, ci dai un contributo, una traccia audio adeguata al momento. Lezioni di San Giovannese. Allora abbiamo number one. Questa nostra seconda puntata. Chi mo ti spiego? Che cosa succede? Questa nostra seconda puntata abbiamo deciso di fare un'altra rubrica. Abbiamo deciso di fare la San Giovannata. Inauguriamo il momento educativo della nostra trasmissione. Adesso facciamo partire il disco educativo. Ecco a voi le lezioni di San Giovannese. Lesson number one. Hello, my name is Leonardo. Leonardo. Lesson number two. The cat is on the table. Ma guarda, c'è il gatto sopra la tavola. Nella marosca. Lesson number three. Bye bye friends, I go home. Ciao, voglio, me ne voglio alla casa che mi ha pigliato uno suono. Mamma mia, non ce la faccio più. And then in italiano però. Lezione numero 4. Meno vocali vogliamo. Lezione numero 4. Oh, mi si è rotto il computer. Devo portarlo a farlo aggiustare. Ai alla maronna, manni alla puttana, mi si è rotto il computer, ha pigliato una botta stamattina e mo le porterà da chi lo concerto, cosa c'è? Lezione numero 4. Mannaggia, quello che aggiusta i computer si è fatto pagare un sacco di soldi e il mio computer continua a non funzionare. Manni alla puttana. Voglio che lo figlio di puttana mi ha fricato, voglio, ci hai portato il computer, c'era di sordo il computer, gli acciuppiai prima. Lezione numero 6, penultima. Il computer mi è caduto dalla finestra, è stato un incidente. Voglio, alla fine tutta l'invenzione, alla fine il computer mi era caduto dalla finestra, l'ho portato un cadechillo, una figura propria di merda, voglio. Non so come ho potuto farlo cadere dalla finestra. Infine, i saluti per dirsi arrivederci. Ciao amici, di nuovo, me ne devo andare. Grazie a tutti quanti. Ciao amici, sempre in San Giovanni. Ciao, voglio. Ne vediamo al prossimo giro, salta frasca. Ultima parola per imparare una parola al giorno di San Giovannese, fango. Zunco. Z'NCU. Voglio pure lo spelling. Zunco. Vogliamo raccontare una barzelletta. Una che barzelletta. Non so se è una barzelletta italiana, però... gira a San Giovanni, una barzelletta che gira a San Giovanni. E insomma c'è sto Giovanni, che è da San Giovanni. Che sto fatica, no? Da una bella ditta, cosa. E insomma, che sto sempre fatica, insomma a dire all'albergo, va all'albergo, in questa città. Va alla reception, vorrei una stanza. Quello, sì. Non ce ne sono, non ce ne sono. Gli ha risposto il proprietario dell'albergo. Ha detto, come facciamo? Allora, il proprietario dell'albergo gli dice: vedi che c'è una stanza con un solo letto e c'è pure un tedesco che me l'ha prenotata. Parra cutrillo e britisi. Potete acconsare? Insomma, il proprietario dell'albergo forse era pronto San Giovanni se la via. E insomma, ho in questa stanza. E il tedesco ha detto: vabbè, per me non ci sono problemi. L'italiano va bene, va bene. E insomma, vanno a letto, se curco. Insomma, prima appena si sono messo un po' di letto. Parte lo San Giovanni. Ha fatto un bello piede. E fare 1-0. 1-0. Annotò il tedesco e dice: ai alla marosca, guarda chi è. E poi ero pure 2 minuti. Piglia il tedesco. Mamma mia, 1-1 fa il tedesco. E l'italiano dice: alla marosca, mannia, guarda chi è. La lotta ormai è iniziata. Annotò l'italiano, San Giovanni che insegnasse a moticchiare, in giacchino di etti, cosa. Due a uno, compa, due a uno. E insomma, arrivo allo 2-2. E poi cosa succede? Il tedesco fa il 3-2. L'italiano dice: alla chi su che cazzo si è mangiato ieri sera. E insomma dice: ma è papari a 2 secondi, fare. E una volta ci è trallato. Compa, 3-3, pareggio, partita annullata, campo infangato. Vai, merci, applausi. Grande Leo, grande Leo. Grazie al nostro amico Leo from San Giovanni. Learning un pezzo. Saluto professionale a tutti gli ascoltatori. Questa è una rubrica nata dal cazzeggio generale. Infatti la ciotia dall'etere è un programma che si ispira a questo. A cosa? Hai capito la filosofia che soggiace al nostro programmino radiofonico? La San Giovannata è un'ottima idea. È riuscita. Eh beh, okay. Io ho letto una notizia sciabeliante, bellissima, che mi tocca nel cuore. Si ma laurea in filosofia e dopo 2 settimane trova lavoro. La questura indaga. No. Oh, è bello. Urda sta cosa. La questura sta indagando. Momento serietà. Chiuso il momento serietà. Uzunku. Ma vediamo se ti ricordi come si dice il gatto sul tavolo. Io alla maresca c'è un gatto sul buon tavolo. Voglio, Marina è preparata comunque. Preparatissima. Minchia. Anni e anni di gavetta. Capì? Questa rubrica era impegnativa. No, questa è una rubrica, se vi... così è se vi piace, quindi riproponete. Se insomma. Non vi piace Arukul. Arukul, no, faccio un motore. Abbiamo fiori di San Giovannesi. Abbiamo i San Giovannesi più San Giovannesi di tutti i San Giovannesi. Ma a proposito di lingua, lo mandiamo un pezzo in lingua. Un pezzo in lingua. Hai leccato il microfono. Che schifo. Schifo persona. Schifo, schifo, schifo microfono. Schifo, schifo, schifo persona. Mi piace il nostro loop Giovanni. Schifo, schifo, schifo, schifo, schifo, schifo, schifo, schifo, schifo, schifo, schifo, schifo. Che schifo, che schifo. Schifo persona, schifo persona. Basta, va. Pezzo. Pezzo. Peppe. Pezzo. Thank you. هی قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه نریا بچه های محل دزدن عشق منو میدزدن عشق منو میدزدن Voi la sapevate? L'abbiamo imparata scritta. Ah, diciamo che è un paio d'anni che... Io l'ho scoperta la settimana scorsa. Perché perché la Ciotia su Facebook ha pubblicato questo evento, Lascia entrare Ascanio, dall'8 di gennaio. La Ciotia di Stefania. Dopo che hai visto ma dopo che hai visto l'evento l'hai fatto entrare ad Ascanio. Certo, dall'8 di gennaio tutti i giorni entra. Ma perché Ascanio viene dopo la Befana, non lo sapevi tu? Dopo, si riporta le feste. Che ci porta? Gomitoli? No. Non di urlare nei gomitoli. Sì, ma non c'è sottofondo Pone? Io non lo sento. Peppone dalla regia, stai facendo male il tuo mestiere. Hai fatto male i conti. Hai visto che non c'è il sottofondo? Ma qui non stiamo sottofondando, ragazze. Stiamo toccando il fondo. Ragazzi. Il sottofondo stiamo toccando, è ancora più in basso. Ma... Schifo. Pisciatore. Pisciatore. Metti un paio di effetti audio, scusami, così per provare la regia. Per provare che c'è una regia. Vogliamo le testimonianze. Applaudiamo audio. Applaudiamo. Ciao Regia, regia. Grande, bravo, grande, un applauso, sì, alla regia. Ok, e quindi voi avete fatto lo scene, entrare a Ascanio. Che Ascanio praticamente è come un passante, visto che attualmente i passanti latitano, c'era Ascanio. Sono in sciopero. C'è uno sciopero di passanti. La io faccio il passante di professione. Alcuni passanti si sono fermati a dirigere il traffico con le macchinine. Ma i passanti non passano. Intervistiamo un passante. Salve passante, lei cosa ci fa qui? Buonasera. Sono andato all'università. Dove sei? Parla però, che sennò qui... Posso salutare zio Greggio e Michel Hunziker. E zio Iacchetti. Quindi, che ci racconti? È un passante elegante. No, sono andato... sono andato in una comunione con Antonietta. Poi però Antonietta... Antonietta. Ha sparato il pacco Antonietta, perché dice che non è credente. Sacca poi la pacchi. Mi ha fatto una serie di domande. Abbiamo fatto il tema della spiritualità. Che ti ha detto? Così. No, che dice che non è credente. Urlava e piangeva e la gente diceva: vedi che santo. E io quindi passo parola a, essendo passante, passo parola a proprio Antonietta, sì, che non è Antonietta quella con la quale io passavo e che mi ha fatto tutte quelle domande, è un'altra Antonietta, capito? E un saluto a Leonardo da San Giovanni, a Tecla, ciao. Okay. Possiamo fare una domanda a un ascoltatore da casa, a Michele Maresca. Cos'è un Dalek? Commentati da solo e dammi una risposta, perché non lo so, c'è scritto una cosa sulla nostra pagina Facebook che non ho capito. Se la capisco la spieghiamo a tutti i nostri amici ascoltatori. Pubblicamente. Pubblichiamoci, condividiamoci, mi piacciamoci. Michele, ora dovresti ascoltare una notizia fresca, fresca, fresca, fresca, fresca di Lercio. Che succede nel Senato? Sento la sigla di lunedì cinema. Giovedì, scusami. Ma la vogliamo dire una cosa seria, ma veramente seria seria, che un film italiano da dopo tanti anni finalmente è stato candidato agli Oscar. Sì. Caspita. Sì. Perché a noi ci piacciono i nostri film italiani. No, La Grande Bellezza ha vinto il Golden Globe per non so che cosa. E quindi Peppone ha perso. Per se ha stesso. Ha vinto La Grande Bellezza. Però ha vinto un film. Lo dica passante, lo dica al microfono. A chi ha mandato? Attori, ha mandato a fangulo in diretta su Rai News 24 alla conduttrice. E vaffanculo alla conduttrice. Brava a Tony Servillo. La conduttrice di cosa? Vabbè. Dei calzoni animati. Io magari aveva mandato a fangulo la conduttrice dei Golden Globe. La conduttrice conduce, per questo l'ha mandato a fangulo. È un conducente. Gli ha fatto una domanda che non gli piaceva. Lui gli ha risposto: ma vaffanculo. Sono il passante di prima. Sono ripassato perché volevo salutare il mio paesano Iaccaleno, questo grandissimo personaggio. E poi il grandissimo Pino Tranquillo, che è sempre al pub di Luca e sta tutte le targhe a memoria di tutte le macchine di Petilia Policastro. Lo saluto vivamente. Quindi ricordiamo, evento straordinario, saluto Giacalene a Pino Tranquillo, grazie. E oggi Luigi che mi ha mandato tanti bacetti sempre, perché le mie sigarette. Ciao. Io invece voglio salutare a mamma, a papà e al mio fidanzato Nicola. Ciao Nico, ti amo. momenti romantici. Io mi chiedo, Andrea, come ti senti adesso? Soprattutto Nicola, perché non passi pure tu da qui? Nicola, ti aspettiamo. Nicola, torna a sorridere. E niente, signor Nicola, vieni casi cavaggio, arrivederci l'ova. Ma tu sei due quartieri. Eusà! Ma sei di Bosco De Nicola! Non si ammai la Madonna! E addi sì! Addi vieni! A chi ne appartieni? I paniamo! Ah! Siamo buoni! Michel! Una freddura di Michele! La conduttrice che porta la corrente porta foto! Wow! Ciotia from Sicily, guaglio! Questa è la ciotia sicula, guaglio! Shari ci chiede chi c'è in studio. C'è Ciccio Puppo, il re del Cogiuriedu. Per scoprire chi c'è, veniteci a trovare qui in aula P2. Infatti. In aula P2 occupata Pontre sì. Pietro Bucci. Pontre Cubo 41. Se anche voi volete essere passanti, passate. Passate di qua, no davvero, vai, passate, siamo tutti i giorni, a tutte le ore di giorno, di notte, vuole sempre. Passare, per passante si prenoti alla prima della porta, perché è passato il santo, passato il passante. Bene, sì, e ricordiamo anche le altre trasmissioni di Fuori Onda Radio. Ci sono delle altre trasmissioni? Noi non Io siamo non ne so niente, gente, non ne so noi non siamo gente di queste fantomatiche trasmissioni. Non ti senti? Noi non siamo gente che esclude le altre trasmissioni. La nostra trasmissione è una trasmissione promotrice di altre trasmissioni. Noi non la trasmissione di trasmissioni che si trasmettono. Infatti vi invito a mettere mi piace a Petilia Policastro, ma non su Facebook. Proprio per andare a Petilia Policastro e andare dal mammista e farsi fare una sorta di lapide che scritto mi piace. E voi andate a Petilia Policastro e mettete mi piace. Il mi piace è analogico di Petilia Policastro. Salutiamo la Rob Wicca Rizzo da Palmi con la sua bellissima palcina e questo è niente. Eh? E niente. Niente. Allora io. Insomma, qua abbiamo un bel pezzaccio come sottofondo. Voi non lo sentite, ma io non lo sento. Non lo sento proprio niente. Quanti le voci. La domanda sorge spontanea, ma chi facciamo a Pasquetta? A Pasquetta. Aiuto, ancora ci stiamo riprendendo da quelli che ti chiedevano che fai a Capodanno. E devi capire che devi fare a Pasquetta. Raga, comunque io vorrei ricordare al passante di professione di Petilia che prima di Pasqua e Pasquetta c'è un altro evento a Petilia. Ah, Santa Spi! Grande, grazie. Vorrei invitare appunto tutti quanti per vivere questo calvario delle nostre vite. Venerdì marzo. Venite tutti quanti a venerdì marzo. Perché effettivamente è una cosa spirituale per la chiesa. Però noi siamo già e ne facciamo una frittatica. Poi ne ci beviamo bene e facciamo pezza, no? 5 litri di vino a testa. A questo punto vorrei anche promuovere la Madonna della Strada a Reggiano Gravina. Ma si fa a pezza come la Santa Spina. Scusate. No. Ebraio, a Madonna del Pilleri, a Damin. No, a Ioppolo, provincia di Vibo Valentia, tutte le estate, ma non mi ricordo quando, c'è la Sacra Rupropo. A Luppolo. Ioppolo! Ah. Vabbè. No, io volevo dire, vogliamo promuovere la Santa Spina. Perché oltre, diciamo, chi vuole essere cristiano, come chi Uvenere Marzo! Può venire là e vivere. Ciao Luca! Una giornata di passione, però può fare pezza, perché c'è un boschetto. E se ci raga la guagliona, se la trova là, si ci imbosca pure. E privacy, tranquillissima. Chi fuma può pure fumare, quindi perfetto. Se siete interessati, venite a Petilia e mettete mi piace. Il secondo venerdì di marzo. Uvenere Marzo, come ci ricordava Luca, che salutiamo. Ciao Luca! Ciao Ro! Luca! Ciao. Ciao. Cosa? Eh? Facciamo 20, facciamo meglio di Sanremo. Ciccio Uovo contro la Lucer. Ma tutto questo internet quando ci costa? Silenzium! Poi io c'è più ciotia della prima puntata comunque in studio, la ciotia cresce, è inarrestabile. A noi non ci arrestano manco se andiamo a fare il porco dopo che siamo agli arresti domiciliari. Però dobbiamo fare una verifica estemporanea. Allora, la parola zunk l'avete imparata? Zunk. Uzunku. Zunku. Dov'è Zunku. Leonardo? Leonardo! Ma si dice zunk o zunk? Zunku. Vedi, devi essere pure con la bocca, zunk. Devi muovere, c'è un movimento di... Com'è sto movimento? Zunk. Zunku. Zunku. Si stringono i denti così, si stringono gli incisivi sui denti inferiori. Peppa, sfumiamo su questo. Zunku. Sfumiamo con una musica allegra. San Giovannese per tutti, San Giovannese facili dalla De Agostini. Podcast la prossima volta di lezioni in San Giovannese. Con i nostri chiar di luna, quando al cinema si va, il bambino mio fa festa e un po' anche il suo papà. Ma nel buio sul più bello lui ti dice così: mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì papà. Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì papà. Mi scappa. Poi? E poi sono andata a scuola, però la maestra non mi ha fatto andare a fare la pipì. E poi ve la posso dire una cosa, i bagni delle scuoline sono proprio piccoli. All'università fanno cagare. E ma io devo fare solo la pipì, Ma me lo dite una cosa, poi ci sono sui marciapiedi qua all'università ci sono sempre le cacchine dei cani che ti si fanno sotto le scarpine. Ma adesso c'è una soluzione. Che cosa? Che succede? Hanno inventato dei cani senza lano. Cioè? Non un cane a lano, un cane senza lano. È un esperimento. Un esperimento. L'hanno inventato o li operano per cucirli il buchino? E chiediamolo al nostro ricercatore universitario veterinario di fiducia, passante. Buonasera a tutti di nuovo. Volevo dire, i cani senza ano. Cane, quindi la parola o non c'è, quindi senza ano, quindi no. Tecnicamente fa i piriti dalla bocca. Questo è il momento più profondo e di spessore della puntata. Il momento arrivare. Trash. In pratica diluisce la cacca e fa la pepe marrò. Prego. Avrei una domanda, professore. Cosa? Il cane senza ano è un cane che effettivamente viene generato in questa maniera, quindi diciamo un meticcio, un incrocio, un innesto tra un cane e qualcosa che effettivamente nasce senza ano, oppure viene operato, quindi è una trasformazione che avviene in seguito ad un'operazione chirurgica da parte di un medico veterinario come ad esempio siete voi, oppure c'è una pillola? Una pillola che le case farmaceutiche ci hanno tenuto nascoste fino a oggi. È un complotto! Ciccio ci cala l'aveva letto e noi eravamo... Ciccio ci cala lo diceva! Quindi è una pillola che ci hanno tenuto nascosto e che solo oggi riusciamo effettivamente a far emergere, insomma a farla scoprire. Allora, si può arrivare a questa cosa secondo due vie. La prima è il metodo stamina, come ha detto lei, in pratica queste cellule staminali vengono iniettate nell'ano del cane e queste vanno appunto ad ambientarsi all'interno dell'ano, costituendo la parete anale del cane. Costituendo oppure chiudendo? Costituendo, quindi facendo del materiale da riporto che va a richiudere completamente la parete anale del cane. Poi si va a modificare la struttura digestiva del cane e quindi evitare che le feci dei cani vengano così lasciate senza una registrazione. La bomba cane si potrebbe creare. Professore Intigni, una domanda, ma un cane senza ano è un cane a risparmio energetico perché c'è il buco dell'ozono che è bucato e quindi vogliono riciclare tutto, vogliono tappare i buchi, questo è il motivo. Un tappabuchi. Sì, è un tappabuchi, è questo sensibilmente l'acqua, quindi avvieremo una campagna nazionale contro l'abbandono dei cani senza ano, perché è appunto una cosa indescrivibile. I cani di... Volevo fare una domanda al professore. Prego. Professore, ma cane senza ano diventa c'è? Sì, stando alle ultimissime ricerche, sì. Diventa c'è. Senza ano. È approvato. Quindi dovranno modificare i dizionari. Sì. Voglio. Diventa c'è perché effettivamente è un cane zero emissivo. Non producendo metano, alle norme c'è. Certo. Ma c'è o c'è nel senso che è made in Cina? Ma c'è o ci fa? Non c'è, voglio, non c'è. Non c'è il cane senza ano, purtroppo. Ultima ora. L'euro esce dall'Italia. E dove va, signora? Dove va? Se n'è andato dalla vergogna. Applausi. Grande Ciccio. Quindi comunque una notizia scioccante: una giornalista di Studio Aperto non sa di essere in onda e dà una notizia di economia. E scusa, non ballavano, come ha fatto? E non ballavano solo di te non ballavano di... Cioè, le loro rubriche tette e culi. Pensava di essere fuori onda. Pensava di essere a fuori onda radio. Mannaggia, no. Pisciato. Altre notizie. Cose da pazzi. Notizie. Allora, abbiamo qua. Religione, guarda. Sei anche Studio Aperto. Mamma, che ha fatto Papa Francesco. Dice che è più famoso di Gesù. Effettivamente. Ai. C'è una notizia. C'è una notizia sul nostro mitico. Mio Dio, no! c'è una notizia sul nostro mitico Mastrota. Giorgio Mastrota. Sono scaduti gli sconti, i giorni dell'offerta. Mi dispiace per voi, mi dispiace per tutti voi. Non ci posso credere. E poi, Peppone. Dai. Che fa? Ah, Antonio Conte dice Juventus con la T rischia l'esonero. Perché doveva dire Juventus. Juventus è giusto. Voglio, sono cose serie, non è che sì. Napoli vede oggetto che emette luci colorate e avverte gli ufologi, ma era solo un semaforo. Bellissimo. E che pure io che vogliamo mi sto dare X Files, mo sono un po' confuso. Vogliamo dare una brutta notizia ai Truzzi Cosentini. È morto l'inventore del Tagadà. È morto l'inventore del Tagadà. No, Utagadà. Te cacciaro Utagadà. Dico, e mo come fa? Da gente. E mo di stare in da gente. E mo su che? Erano bravo Wayu e mo abbiamo voluto bene. Abbiamo voluto Utagadà. Però abbiamo una chicca. Ho fatto una sorpresa a tutti voi. Pensavo ho fatto la cacca. Ah, vero? Dovrei. Praticamente, Tarlo è un pisciaturo di professione. Il nostro pisciaturo di professione. Ma Tarlo non c'è andato via. Tarlo è andato via. Meno male che è andato via. No, Tarlo, ti vogliamo bene. Ciao Tarlo. Anche se non ci stai ascoltando. Perché sei un pisciaturo. Noi mandiamo in onda le ultime tue tracce audio. Sì, allora, le ultime parole di Tarlo. C'è un momento epico in cui è partito un grande stacco musicale. Comunque sta per arrivare un grande momento storico, che è un'intervista a Tarlo. Tarlo. Abbiamo un ospite, una grande sorpresa qui, il nostro amico Tarlito Sway. A che punto siamo della trasmissione? Che te ne frega a te, Carle, parla e statti zitto, parla come devi parlare e non romper cazzo. Sì, ma se io non so il pregresso non posso dire niente. Lei devi rispondere semplicemente a delle domande, cioè se non ti va, cioè, te ne puoi tornare a Roma. Io domani ci vado comunque a Roma, però te fammi le domande, dai. Allora, senti, volevamo sapere da te, noi delle ciote, cos'è la tua... Come ciote vi presentate bene comunque. Complimenti a tutte e quattro. Grazie. Senti, volevamo sapere da te, siccome arrivi dalla capitale, quindi insomma vivi vita mondana, vai in giro per feste. Per fezze. Volevamo sapere da te come si fanno i biscotti. Con l'erba. No, Carle, seriamente, visto che ci ascoltano pure persone, insomma, di un certo livello. Cioè, la ricetta dei biscotti. La ricetta della torta, dai, dici una ricetta. Ma la marijuana è l'ingrediente di base. Vabbù, cambiamo domanda perché Carlo stasera non è recettivo più del solito. Insomma, Carle, volevamo chiederti un pochino cosa fai a Roma, cosa fai di bello. Vabbè, a parte lavorare come un mulo per tutto il giorno, la sera birra, super alcolici. Ah, quindi vai per gradi, diciamo, è così. Ovviamente sì. Ok, ma che ne pensi invece dell'acqua? Cioè, a Roma che acqua bevi? L'acqua farruzza. Acqua farruzza, minchia Carle, ma cazzo di domanda sensata, non hai risposto. Che acqua mi bevo? Quella del rubinetto, ma che cazzo di domande so? Ok, passiamo alla prossima. Carle, cosa hai votato alle primarie del PD? L'ultima festa a cui sei stato? L'ultima festa a cui sono stato... Vabbè, questa andrà in onda quando? Te ne frega. Vabbè, andrà in onda... Io sono stato quindi l'ultima festa alla laurea di Los Angeles in P2. Sicuramente sarà quella. Bravissimo. Ascolta, ma come si progetta? Come si progetta qualcosa in Java? Dici più o meno l'esecuzione della programmazione, no? Fai la domanda più precisa. Carle, vaffanculo, come si scrive uno script? come si compila uno script, lo compili e lo lanci. Sempre come al solito molto esaustivo. E lo dice meglio Cicillo. Ma porco Dio. Ebbene, Carlè, allora, qual è il tuo piatto preferito? Il mio piatto preferito? La pizza qua sasizza. Finalmente ti ricordi il calabrese, vaffanculo Carletto, vaffanculo. Per i piatti tipici sì. Senti, l'ultimo film che hai girato, ha avuto un sacco di telespettatori. Carle, che cazzo te fa così cura meno? Carle, la devi rispondere mo. Da cosa deriva? Da cosa deriva la tua voglia di scrivere questo film con questa trama così avvincente? Spiegaci un pochino com'era la tua esperienza, com'è stata. Io sono all'oscuro di tutto. Che cazzo di film è? Come non lo sai? Su YouTube ha fatto più di 10.000 visualizzazioni. Vamo a vedere, non lo so, non lo conosco. Cioè io sono giro film a mia insaputa. Sì, eri il protagonista, era Tarlo, un avanguardista del Saint-Papier, com'è? Saint-Papier, che partecipava a una manifestazione il 19 ottobre, se non sbaglio, eri sotto il ministero e poi ti sei imboscato in un vicoletto. Sì, e per fortuna non c'erano guardie. Mi stavo per pigliare la carica. Sì, ma quella della batteria? Era... No, il lacrimogeno. Lacrimogeno. Per questo hai gli occhi rossi, Carlè. Ma che ne pensi di ritornare al taglio di capelli naturale? C'è un piccolo problema di fondo. Me devo ricomprare la macchinetta. Oppure c'è un piccolo problema di fondo che da dietro stai facendo un pochino la chierica. Carlè. Il problema di fondo resta lo stesso. Me devo comprare la macchinetta. Bene, bene. Che macchinetta? Quella del caffè? Se i capelli si tagliano con la macchinetta del caffè va bene uguale. Vabbè, passiamo a una domanda seria. Cosa ne pensi del nostro programma? Cioè, ti è piaciuto? L'hai sentito? Vi ho sentito 10 minuti ieri sera, la prima puntata. Vi devo dire che in quanto a ciò di non vi batte nessuno. Cioè, al naturale, senza aver né bevuto né fumato, siete proprio... Date il meglio di voi. Io voglio vedere imbriache, però. Carla, è durata 2 ore il programma e tu l'hai visto solo 10 minuti. Che cazzo conti? Non potevo sentire di più, mi è bastato quei 10 minuti. Mi sono bastati 10 minuti, guarda, cioè, è stata un'esperienza mistica. Vabbè, la prossima volta lo ascolti tutto il nostro programma, che se no ti gridiamo pisciaturo, pisciaturo. Sì, lo ascolto tutto, se mi dici quando lo fate in diretta, spero non in orario d'ufficio. Ma vai all'ufficio con la cartellina, cravatta, giacchetta, a velletri? No, in ufficio ci vado con la felpa. Con la felpa? Sei proprio avanti, Carlo. Ma insomma, chiudiamo questa intervista, questo piccolo estratto da questa ciotiata di stasera. E con un saluto, chi vuoi salutare? Chi voglio salutare? Salutiamo innanzitutto tutti i ciuoti che gravitano attorno a questo ambientino Napoco Dark che è la P2. Salutiamo Cicillo, Marinella che mi ha intervistato, Flavia, Antonietta e Andrea, che non sono presenti. Come si sarà una sorpresa, e come si suol dire a Roma, in questo momento non ci sono e quindi sa pigliano under beep. Ma invece un saluto in romano ai tuoi amici romani. Bella raga, bella Tarlu. E niente, vabbè, chiudiamo qui Tarlo, che ne dici? O vuoi dirci qualcos'altro? Che ne so, ti è venuto in mente come si fanno i biscotti? Mi è venuto in mente che i biscotti si fanno sempre con l'erba. L'ingrediente di base è l'erba. Ah sì? Vabbù. Insomma, a livello di ciotia, Tarlo, sei rimasto lo stesso e... ok. Era la diagnosi. L'anamnesi, Carlè, l'anamnesi. Ok. Come si dice? Oh, te sei... Grazie, Tarlo. Grazie, Tarlo. Grazie per il saluto. Allora, a Tarlo. Ma vaffanculo, va! Oh, Tarlo ha imparato il romano va. In due giorni già gli pigliava. Per la veturdiglia, Tarle, e mo tutto sto scialla scialla, ma più piacere Tarlo. Sì, ricordiamo per chi non conosce Tarlo, i nostri amici. Qui Tarlo lo conoscono tutti, ma da casa. Infatti. Gli amici siculi, eccetera, eccetera. Cioè, non sapete chi è Tarlo. È Nupisciaturu di Crotone. Che è andata a lavorare a Roma e mo parla in romano così. Dopo due giorni già stava a parlare così che non si poteva manco scherzare, che tirava fuori un daje dopo l'altro che... E Tarlo! Non hai capito, tu gli chiedi Tarlo, ma perché parli in romano? E lui ti risponde, no ma è l'abitudine, ora mi riesce strano parlare il crotonese. Che quando devi l'abitudine sei finito, ormai è andata. Non c'è cura per l'abitudine. Oh, ma un postetto per Nafanafder, oh sì. Ci siamo fatte peggio fezze comunque, Anche se ti vogliamo bene, però, ma vaffanculo, Tarle. Tarle. Dai, Tarlo. Ripigliate. Ripigliate. E ricordati il calabrese, il cosentino, quello che vuoi. Però si può tutto quello che vuoi. Purché. Che poi mi ricorda mi ha ricordato il nostro Peppone che... È sconvolto. Perché Carlo fino all'anno scorso conosceva solo romano, quello dei pullman di... Quindi... Capì? Però poi si fanno questi passi di qualità che una volta che sei nella capitale non te passa più. E ormai Tarletto è arrivato là. Tapiato e... Ormai ha fatto carriera, raga. È rimpiantato. Si è impiantato. Pure i capelli te li vedi impiantato. No! Ma abbiamo vogliamo dare delle notizie? Sì. A proposito di sì. di pulizia, a proposito di pulizia. Si dice che in Iran ci sia un uomo che praticamente non si lava da ben 60 anni e ha sviluppato tantissimi anticorpi, tanto che la guerra in Iran, no? Lo usano nelle cose militari. Lo usano per cavia. No, ma perché capisce gli anticorpi? Dice che fuma escrementi di animali. E come fa, se li secca? Non lo so, lo diceva la Repubblica. Poi la Repubblica ultimamente... Le pizze? Pizza no! Poi c'è un'altra notizia che sta a cuore al nostro passante di Cosenza. Al nostro passante di Cosenza c'è un'altra notizia che gli sta a cuore. Quale notizia? È la causa di... La causa. Qual è? E non se la ricorda. Le buche di Piazza Fera. Siamo qui oggi perché vogliamo presentare questo nuovo progetto Cosenza è smart, very smart Cosenza, la buca è smart la buca perché è rotonda, sì. La buca è un cerchio, è smart perché essendo smart la buca, quando la prendi la buca non te la rompe la gomma, capito? Perché è smart. Sono fatte apposta. Quelle di Piazza Fera sono fatte apposta. Sono fatte apposta perché così vai piano, no? E vai piano, guardi i negozi, dici quello me lo compro, poi non c'hai i soldi. Però intanto ci pensi. Ecco perché. Avete capito? A proposito di Piazza Fera, come la volta scorsa abbiamo parlato di progetti che non si realizzeranno mai, sempre a Cosenza. Sapete che i lavori di Piazza Fera appena iniziati sono già finiti? Ti indaga la procura della Repubblica. Perché? Ancora devo iniziare. Cioè, Per sport? Sì, dice che il campionato di tennis era occupato, allora il PM. Vabbè, andiamo a indagare Piazza Fera. Perché? È giusto. Voglio Piazza Fera, è bella. E usa. Peccato che si chiama Piazza Fera, però. Io, prima che qualcuno mi dicesse quello è Piazza Fera, mica avevo capito che era una piazza. E invece si chiama Piazza Bilotti. E perché? Perché si chiama. Il corso è Luigi Fera, il corso. Però. Ah. perché Bilotti ha regalato le statue che poi cambiando la munizione hanno rotto. Quelle di del famoso ma io ho visto un progetto di come sarà Piazza Bilotti con due palle, davvero? Sì, perché? Perché una volta a Cosenza c'era lo spazio, magari volevi fare un concerto, non lo so. Adesso non palle. Ma che sì, palle? C'è questa specie di pedana strana messa come un foglio che si sta per arrotolare e a due angoli ci sono due sfere giganti di marmo, non lo so, di pietra. Ho visto il disegno del progetto. Mi chiedevo, tu che sei di Cosenza, se mi puoi spiegare questa fissazione geometrica che c'è da queste parti. Ecco. Perché fanno pandan con i cerchi. Eh? Fanno pandan con i cerchi. Ma mamma mi si quadrati però. Ma i cerchi ci sono sempre. Perché Cosenza è smart anche nell'illuminazione di Natale. Che avete capito? Quei cerchi ce li mettiamo ovunque. Non ti preoccupare. Ma ci fate l'ula hop? Sì, perché ci hanno fatto le palle quadrate. Ah! Mo si spiega. Comunque, certo. Ragazze, ho una notizia. Bomba. Carlo si lamenta che non si segue le nostre trasmissioni, che non riesce, che noi abbiamo problemi diretti. E lui lo sapete dov'è in questo momento? Dov'è? Rupisciatu! Dov'è? È emozionatissimo perché è andato a vedere il servizio pubblico dal vivo. Rupisciatu! Adelena, una volta eri una persona meglio. Ma quando? Ma lo intervistano anche. Ci sarà un'intervista al Santoro. A Santoro. Pulirà la sedia di Non Travaglio lo so, però Carlo. L'unica cosa che sappiamo di sicuro è che hanno scoperto la prima ragione di morte del mondo. Oh mio Dio, qual è? La morte. Non l'avrei mai detto. Tra l'altro, Wayu, mi dicono che se voi volete sfuggire alla vecchiaia, due rimedi ci sono. E quali sono? La non nascita e la morte. Ma veramente dici? Wayu. Le cose, se non le sai, Antonietta, salle. Ma lo mandiamo un pezzo dedicato a Tarlo. Tarlo, certo. E te stava dedicando a pezzaccio proprio, guarda. E hanno fatto la canzone Pichantù. No, è meglio ancora. Che si chiama? Che sei una merda. Tarlo, veramente sei una merda. No, Tarlo, ti vogliamo bene. Ciao, Tarlo, baci, Tarlo. Piccolina mia, la notte buia, no, non andar via. Com'è bello il nostro amore, senti come sale. Accendini, bello solo se ci sei tu. Che bella che è Vanetta. E quindi? Sotto questa luna, dimmi cosa pensi di me. Andiamo. Sì? Che sei una merda. Come? Cosa? Ti chiedo veramente che c'è merda. Come? C'è qualcosa che non va, no. No, c'è un problema. Forse c'è un errore. Tu non parli bene. Ma certo, sono inglese. Inglese. È la famosa cantante inglese Vanetta. Sì, adesso risolveranno il problema. Che leggiadria però. Certo. Tua. Che confusione. Non preoccuparti, c'è la soluzione. Allora qui c'è un dizionario. Ah, bene. Presto controlla la definizione. Sentiamo. Com'è bello il nostro amore. È bello fatto amore. Senti come sale. Dale. È bello solo se ci sei tu. Dai, sentiamo. Sotto questa luna, dimmi cosa pensi di me. Che sei una merda. Aia. Ancora? Ha controllato? Inequivocabilmente, Carlo. No. Non c'è un equivoco. Sono un po' sicuro. Dai, controlla bene. Forse sbaglia. Però qui è paper chase, carta canta. Sicuramente vuoi sapere cosa penso di te? Sì. Però mi sembra aver capito. Che sei una merda. Ma sì. Guarda, è proprio così. Guarda gli elefantoni come si muovono bene dietro. Avrà controllato bene, secondo voi? Glielo sa. Che leggiadria anche i nostri sei elefantoni. Temo bene. Su queste note struggenti. Ciao, Luciana, grazie. Questa canzone noi vi lasciamo. Vi ricordiamo che giovedì a mezzanotte saremo in onda con Mai Dire Grande Fratello. E anche domenica di nuovo e dureremo anche di più. Pensa un po' che sfiga. Ma ora tocca alle Iene, subito dopo di noi. attaccati. Ciao, auguri. Auguri. Ciao a tutti. È finito, amici. È finito. Che merda. Che merda. Sotto questa luna. Ditemi cosa pensate di Tarlo. What? Tarlo. Cosa, Antonietta? È una merda. Cosa dicevi, Antonietta? Momento saluti. Oh, yeah. Facciamo tutti un momento saluti con questo accento. Ok. Io non lo so fare. E sì che lo so, perché ti ho fatto fare la bocca come se ti stessi venendo un attacco di cacchina. Ragazze, muovete quelle gambe, forza, sui glutei. Rastodiamo, io facevo l'imitazione sua. Io facevo Jill Cooper. Non ti permettere, sai. Guarda che sono io. Alza gamba destra. Facciamo una sfida, facciamo una sfida, facciamo una sfida, facciamo una sfida, vediamo chi sta. Dai, ti sto aspettando, amica. Io sono vera Giacupa con very glutei, very sodi, molto sodi, e per studiare il tuo addominale, addominali scolpiti, forza su, muovi, destra, destra, no, destra, no, Andrea, passo a sinistra. Andrea, Jill Cooper non dice Dio. Addominali, dice tuoi addominale. Addominale generico, tuoi addominali e tuoi addominali senza tuoi è generico. Tu non giocare. Genero addominali. Oh yeah. Forza. Tu stupido. Oh, olio. Stolio. Stolio. Wow. C'è Antonietta che c'è una faccia addolorata. No, perché volevo dire una cosa, ma è passato il momento catartico. Cosa volevi tu dire? Catarrico. E mo mi sono sforzata per dire una cosa. Sei raffreddata? Hai un momento catarrico? Yes. Recent no. Recent no. And this is the end. My friend. Da, bam, bam. Living friend, yeah. E beh? È bello che la cantante passa il microfono a me. Non ti di cantare. Beh, salutiamo. Beh, salutiamo. Andiamo un giorno che andiamo a mangiare. Sono due ore che trasmettiamo. C'è questo ragazzo di Cosenza che ci sta mettendo un'ansia. È come se avessimo una clessidra vivente. Maravangu. Vaffangulo. Ecco, stiamo perfettamente seguendo le prescrizioni. Cosa? Cosenza è sulla guida del Tuning Club itinerari. E con questa notizia, vi lasciamo. Vi lasciamo perché non sappiamo proprio commentare. Ci rivediamo giovedì prossimo. Sì, grazie per averci seguito. Soprattutto ci rivediamo. Un abbraccio. Rivediamoci, Antonietta. E salutiamo tutti quelli che a casa ci hanno ascoltato e ci hanno sentito. Un sacco di gente. Sentito. E ben 13 persone. 13 persone abbiamo 10, fatto proprio 13 persone. Si sono abbassate in un picco clamoroso quando abbiamo trasmesso l'intervista di Tarlo. E perché Tarlo non fai ascolto? Ragazzi, abbiamo già un'ascoltatrice che ci piange. Che cosa? No, non piange, l'ascoltatrice piange. Sara dalla Sicilia dice che ciao, non può aspettare per l'ultima settimana per ascoltarci di nuovo. Ciao Sherry. Cosa? Ti puoi scaricare il podcast, Shari, pure dalla Sicilia, pure dalla Turchia, pure dalla Francia, dalla Mongolia e Scala, dovunque. Tu pare che parli arabo, non inglese. Oh, in Afghanistan non si lava. Everywhere you puoi, you can, everywhere you can download the podcast. Ah, buono, figliolo, se ci volete riascoltare. Sì. Sul sito di Fuori Onda Radio, fuoriondaradio.altervista.org, ci sta nell'area podcast il nostro, nell'area download. Ci dicono dalla regia che non è vero assolutamente niente. Da dove si scarica? Peppone scuote allora, la testa. Ecco, andiamo sul sito, proprio facciamolo praticamente. Andiamo sul sito fuoriandaradio.altervista.org, andiamo nell'area podcast e non troverete Ciotio dall'etere. No. E non troverete Ciotio dall'etere, perché questi cazzo di informatici nerd, fatemelo dire, sanno tutto, questo loro, lo dobbiamo dire, no? Dobbiamo che fanno, che fanno che fanno tutti i programmini dal terminale. Non è vero, Ciccio Marì. Non è vero, Ciccio Marì. Ah, dal sito nuovo. Il sito nuovo, ci siamo noi. Certo. Il sito nuovo. Allora, boicottatori. Nel frattempo, fino a che il sito nuovo non sarà messo in onda, il sito, il podcast, appena Peppone lo mette online, lo pubblichiamo sulla nostra pagina di Fuori Onda Radio. Certo, Peppone, e anche con una certa celerità, Sì. Io allora vi... Un giorno cosa? Ascolterete il nostro podcast quando i nostri informatici nerd... Cosa? Una cosa? Settimana! Ho caricato prima il vostro podcast, che è quello di Clandestino. Bravo! Bravo! Bravo! E devi continuare, Ciccio, così. Non ammazzarlo. Ciccio Marino, non far del male a Peppe. Quindi un giorno ci ascolterete sul nuovo sito. Sì, la prima puntata c'è, l'abbiamo anche già scrivere. Linkata sul Ciccio Marino commenta rapidissimo. L'abbiamo anche già linkata sulla nostra pagina Facebook di Ciotia dall'etere. E niente, ragazzi, riascoltateci appena esce, certo. Prendete la vecchia puntata e mettetela come suoneria del cellulare e ascoltateci. Non risponderete mai al cellulare perché non sentirete assolutamente. No, you, l'importante è che ci ascoltate. E mi raccomando, preparatevi, perché la prossima settimana vi interroghiamo sulle lezioni di San Giovannese. La San Giovannata. Ah, e usa. Ui. Un saluto dai passanti. Un saluto dai passanti. Ciao. Pezzo. Allora, Nicola ci saluta. Saluto la mia fidanzata Giovanna. E Giovanna ci saluta. A Nicola. Nico, ti amo. Salutiamo anche Peppone in regia. Io saluto Ciao, Antonietta, Andrea, Marina, Mimmo Backup, Garul, Farian, il nostro esperto prof. Di San Giovannese, il prof Leo, i nerd che non si possono mai nominare. Ciao Flavia. Ciao Flavia. Ciao Flavia. Ciao Ciccio Popo. Random. Dai, chiudiamo. Oh. Questa storia obliko amorale russo rozpizdoto maniakale i paranormale. O solnce Santa Marinale излизанный тобою я получал не раз да-да-да-да, в посольствах США отказ. Там недалеко от Рима есть город Палестрина, звезда периферии, вся в маслинах стала наша малина. О, мама Палестрина, встречайте пьяных пилигримов без права на выезд, без визы на вдох, без визы на выдох. И я взмолился к Экасу, и о Борго Мадонна, где тритворный подъезд или этот отъезд тело мусоропровода. Сабаркетия у мия мадре, ау, крещендо паранойя. Я на пьяца довона. Сидел раз.